Questo è Radio 24 che trasmette la passione. Ogni sorso 24 come il calcio di un pallone. Siamo tutti convocati in quest'Italia. Scrivi Radio 24 sulla tua maglia. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Crecer y sobrevivir a la humilde expresión, enfrentar la adversidad con afán de ganarme a cada paso la vida. En un potrero forjé una zurda inmortal con experiencia, sedienta ambición de llegar de cebollita. Soñaba jugar un mundial y consagrarme en primera, tal vez jugando pudiera a mi familia ayudar. Oh, Pardo è un cuore di pietra, ma io ho brividi alti così, Anch'io ho brividi alti così. Ma va, bugiardo. Sto sentendo e vedendo bugiardo. Cose meravigliose, ma soprattutto perché ho Guido Meda qua al mio fianco. Davvero? Pelle d'oca, che è Genta? Guido! Carlo, buongiorno! Perché frequenti brutte compagnie? Noi ci frequentiamo volentieri qua, siamo un sidecar io e Pardo qua in redazione. Chi guida? Tendenza, ma dipende, a turno, come fanno quelli bravi a turno. Sì, Non lo sì, so, sì, sì. Se guidi tu io vengo, se guida Pardo ma anche guido no. Guido io allora, guido io. Guida tu, Guido. Guido io. Senti, è un titolo per una trasmissione, guido io, si potrebbe fare. La facciamo, ma vince il mondiale ragazzino domenica? Sai che mi stavo chiedendo adesso la stessa cosa? Stamattina è caduto. Buon segno. Cioè nel senso che speri che rimanga aperto il mondiale, che gli venga un po' di braccino sul più bello? Stiamo parlando di Marc Márquez. Non credo che gli venga il braccino. Anche secondo me, però Lorenzo è molto, molto orientato a non dargli la vinta, per cui rischia di essere molto molto bello. Senti Guido, noi che non siamo dei fighetti abbiamo apprezzato tantissimo le sportellate delle ultime due corse, Poi loro dicano, i buonisti dicano quello che vogliono. C'è il papà di Marco Simoncelli che ha rilasciato un'intervista in questi giorni che dice più o meno la stessa cosa. Dice anche Marco avrebbe fatto così, non rompetegli le scatole a sto ragazzino, questo ragazzino è la voglia di vivere e di correre, è bello che sia così. Ma certo. Intanto, caro Guido, mentre mi ripassi Pardo ti do una notizia, questa sera gioca Maradona all'Olimpico. Molto bene, lo dico a Pardo o glielo dici tu? O lo sa già? Secondo me non lo sa, cosa vuoi che sappia Pardo? Gioca Maradona, ha fatto un tweet, l'ultimo quarto d'ora, sì, ha fatto un tweet, è compulsivo con Twitter, Sì, levateglielo, è peggio di Balotelli, levateglielo. No, è peggio di me, che è tutto dire, e mi sta anche raggiungendo a followers, brutti momenti, un abbraccio Carlo Genta. Ciao Guido Meda, ti voglio bene. Vuoi aggiungere di... Allora... No, scusa, c'è Meda che sta anche dicendo viva la Viva la Confindustria. Ha detto anche così? Sì, viva la Confindustria. No, sono io, sono Meda, lo sto dicendo proprio io. La Confindustria c'è, un abbraccio. Vabbè, Pierluigi Pardo è stato bello. Dopo questa prendiamo facciamo lo scatolone e ci mandano via. Vabbè. 800 24 00 24, numero verde, tutti convocati sempre qui da noi, da me e Pierluigi Pardo. Allora Maradona gioca, non è uno scherzo, cioè va all'Olimpico e scende in campo a quanto pare, ovviamente a salutare i presenti. Bellissimo. No, non avevo capito se dovevo parlare o no, che è una cosa che in radio può essere utile sapere. Sì. Io penso che sia una storia, comunque la si voglia vedere, bella, romantica. San Maradona è chiaramente un personaggio controverso, c'è anche il Maradona fuori dal campo, c'è anche tutto il discorso di Equitalia, si era sparsa la voce addirittura ieri sera, poi non è stata confermata, i funzionari di Equitalia possono andare in suo albergo a Milano. Ci sono anche questi elementi, però insomma noi siamo, penso, appassionati di calcio come e quindi celebriamo un genio, sì. Celebriamo forse il genio più grande che il calcio abbia mai vissuto, quello che fa sì che poi appunto sulla frase di Mentana dell'altro giorno ci si possa discutere per ore ed ore, certo, no? Certo, diceva certo. Meglio Ronaldo di insomma questo è il calcio, se stiamo qui se delle persone adulte vaccinate e anche in qualche caso di discreto livello culturale passano la propria vita o comunque delle ore a interrogarsi su questo, a ricordarsi le giocate, i gol di uno come Maradona, vuol dire che anche quella in fondo è arte, no? Arte popolare, beh, ovviamente. Quella è arte contemporanea, e su questo non ho dubbi, ci sono alcuni sportivi, alcuni gesti di alcuni sportivi che sono delle icone, sono arte contemporanea, vale per Maradona, Michael Jordan e qualcun altro, e infatti sono personaggi che esulano dallo sport, ma è un discorso che poi facciamo con un nostro ospite. Intanto, vuoi sentire da Maradona come andrà Roma-Napoli? Te lo faccio sentire subito. Credo che il Napoli deve andare rilassato lì. La Roma deve vincere e il Napoli deve andare a attaccarlo quando può attaccarlo. Io dico che Benitez sta facendo un gran lavoro, però noi allenatori abbiamo poco da fare quando la palla comincia a rodare. Lì dipende dai giocatori. E per quello vedo un Napoli con un'altra mentalità di anni passati, vedo un Napoli che sa stare in campo, che ha vinto contro il Milan. E la Roma sta andando come un treno, questo non si può lasciare da parte, però io dico che Napoli ha più fame di vittoria che la Roma, e speriamo che il Napoli domani faccia una grandissima partita. Tutti convocati. Indovini chi li ho presi? Maradona. Si yo fuera Maradona, viviría como él. Si yo fuera Maradona, frente a cualquier portería. Oggi per me è il giorno del cuore, per me Maradona e poi nessuno, è il mio idolo assoluto, alla faccia di tutti quei prosaici che mi ricordano storie di droga, che mi ricordano storie di evasione fiscale, che mi ricordano come stamattina gli è stato notificato questo avviso di mora da 39 milioni di euro. Io prosaico, quando c'entra Maradona, non sono, è una mia debolezza, caro Pardo. No, condivido. Ma come sempre, poi nella vita che cosa giudichi? Il personaggio pubblico o le debolezze private? Le debolezze private sono private. Sì, appunto, e comunque non aspetta a noi, è come... ma questo vale non soltanto nel calcio, vale anche in tanti settori. Ma chiaro. Ci sono stati registi che hanno avuto problemi, ce ne ricordiamo uno recente, sì, storie, diciamo, di abusi, presunti abusi sessuali. Ci sono stati sicuramente artisti che hanno vissuto esistenze sregolate. Insomma, io credo che sia abbastanza un tratto comune dell'artista poter avere delle debolezze, poter avere dei comportamenti esagerati e sicuramente non consigliabili, ma insomma non spetta a noi. Noi ci ricordiamo quello che è stato, quello che è. Il simbolo che è stato anche, perché è questa anche la considerazione che io volevo girare a un collega che invidio moltissimo, naturalmente. Oltre che per la sua bravura, per il fatto che ieri cintura nera di Freccialata, il numero uno al mondo. Era sul palco della Gazzetta dello Sport ad intervistare il mio idolo assoluto, Paolo Condò. Ciao Paolo. Ciao Carlo, ciao Pierluigi. Ciao. Allora, intanto siamo in tre nel partito che avete appena fondato. Siamo in tre. Anzi, siamo molto più di tre, però qui presenti siamo in tre. Allora fuori la voce, 800240024, voi che credete nella poesia e non solo nella prosa, dimmi. Credo che Bill Clinton sia stato il miglior presidente americano degli ultimi 30 anni. Grande, sì. Ecco, sì. E la cosa, quello che accadeva sotto la sua scrivania a un certo punto, francamente non me ne frega nulla, non muta di nulla il mio giudizio politico su Bill Clinton. E questo è un discorso anche per Maradona. Poi, per quanto riguarda la storia della lite fiscale, che è quella la cosa che dà scandalo, perché per quanto riguarda la droga, anzi, trovo che le parole che lui ha detto ieri siano molto vicino alle lacrime, ero seduto vicino e posso testimoniare, siano una straordinaria dimostrazione che c'è speranza per tutti. perché lui era praticamente andato, sì. Ed è stata la figlia a prenderlo per le orecchie praticamente, sì. E a costringerlo ad assumersi le sue responsabilità. Abbiamo questa dichiarazione, dovremmo averla. Dovremmo averla. Ho vissuto quello che ho vissuto, ho toccato fondo, ho fatto piangere mia madre che oggi sta nel cielo, ho fatto piangere i miei figli, alla compagna mia che in quel momento era Claudia. Ho fatto male a tanta gente che mi era vicino, però mai mi sono portato a nessuno con me. Un giorno ho visto Dalma che mi diceva: mia sorella ha bisogno di te, non morire papà. Mi è caduto dalla testa fino al piede sinistro e ho detto mai più. E fra 4 mesi saranno 10 anni che non prendo niente. Dunque ragazzi, come Picasso, Andy Warhol, James Dean, Marilyn Monroe, Gio Di Maggio, chi volete, John Belushi che pure ha avuto i suoi problemi, un'icona. No, guarda che io mi ribello sempre quando si parla dei grandi campioni dello sport o di altre discipline che debbano essere dei modelli. Ecco, mi ribello sempre a questo discorso, perché noi che li conosciamo sappiamo che tante sono brave persone, ma tanti sono degli imbecilli, dei cretini, della brutta gente e così via, che però fa benissimo una cosa e quindi per questo diventa un idolo popolare. Ecco, quindi divertiamoci, godiamo della loro arte, ecco, ma non consideriamoli modelli. In questo caso, in questo unico caso, io dico che Maradona, per tanti che hanno il problema che aveva lui, potrebbe veramente essere un modello per Maradona, per chi ha il problema e per le famiglie di chi ha un problema, perché lui ieri ci ha detto come ne sia uscito grazie alla figlia. Sì, e grazie alla famiglia sostanzialmente, e questo è stato un grandissimo insegnamento. Poi per quanto riguarda quello che stavo dicendo prima, e cioè la frode fiscale, ecco, la frode fiscale è ciò che dà scandalo nella storia di Maradona, perché io sono un lavoratore dipendente, potete immaginare cosa farei agli evasori fiscali. Ecco, ce li appenderei veramente tutti quanti. Tu come noi. Credo come tutti i lavoratori dipendenti che per ovvi motivi pagano le tasse fino all'ultimo euro. Ecco, ma nella storia di Maradona, nel ricorso che io ho letto anche del suo avvocato, così, ci sono delle incongruenze notevoli e soprattutto ci riporta un tempo che ora è passato, perché ora fanno i contratti d'immagine per fare l'elusione fiscale praticamente, no? Ecco, però all'epoca fu Elenio Herrera, pensate, il primo a inserire nel suo contratto questa clausola. Elenio Herrera è quello che trasforma per primo in denaro la notorietà sportiva. Sì. Ecco, e c'erano nei contratti l'impegno per le società a pagare le tasse. Cioè tu praticamente firmavi il contratto, io guadagno 100, ma questi 100 sono quelli che mi vengono effettivamente in tasca, per tutta la questione fiscale ci pensa poi la società. Sì, sì. E questo è il casino che è successo, sì, nel caso Maradona. E quindi anche da quel punto di vista morale la condanna è meno decisa rispetto ad altri esempi che sono sotto gli occhi di tutti per, sì, quanto riguarda la frode fiscale. Che poi sappiamo sappiamo bene come ad esempio in altri sport ci sia tutto questo, sia la luce del sole. Nella pallacanestro c'è un contratto depositato in Lega per il giocatore, poi un altro contratto che è quello con maggiori emolumenti che vengono pagati come diritti d'immagine, ed è un'elusione, esatto, chiara. Pier. Adesso è un'elusione anche questa, appunto. Dico, adesso hanno trovato questo escamotage. Quando non c'era lo facevano in maniera più grossolana, sì, sì, che era, sì, quella di dire è la società che paga le tasse, e si andava incontro a casini del genere. No, volevo tornare un attimo al discorso di prima sulla droga, perché in realtà nella mia percezione, io Maradona lo adoro anche per quello, non perché si sia drogato, per carità, ma lo adoro perché nella sua vita ha vissuto veramente delle fasi e delle complessità e delle debolezze, delle fragilità che lo rendono estremamente umano. E, perché è così distante anche fisicamente, anche se lui è stato un grandissimo atleta, perché poi gli esperti proprio di fisiologia ti dicono che lui era un grandissimo atleta con questo baricentro basso, con questa incredibile forza delle gambe, però certamente è molto diverso dal tipo, dallo stereotipo dell'atleta perfetto, no? Come soprattutto nel calcio moderno, un calcio che comunque già negli anni 80 stava cominciando a diventare quello della gente alta 1,95 m con i muscoli. E questo lo rende eccezionale. La sua vicenda è una vicenda letteraria e c'è poco da fare, insomma. Poi io vedo adesso anche i commenti che stanno arrivando su Maradona, ci si divide sempre, nel senso che c'è chi si ferma a un piano poetico e quindi pensa al campo e basta, e c'è chi invece continua a dire che ci deve 40 milioni di euro, sì. Cioè, no, questo genere di ragionamenti e son giusti tutte e due, voglio dire, nel senso che le due cose convivono nella stessa persona. Però insomma, poi bisogna capire, come diceva Paolo, che cosa cerchi da un calciatore, no? Se quello che cerchi è essenzialmente l'emozione che ti può dare con i suoi comportamenti in campo, devi partire da lì. Allora, io voglio, prima di salutare Paolo Condò e prima di tenermi Pierluigi Pardo e gli ascoltatori che sono già in linea, Salvatore da Torino, Giovanni da Milano, non scappate, volevo prendermi una piccola rivincita personale, no? Perché, a proposito di Balotelli, tutti mi dicono: ma perché lo difendi sempre, ma quanto prendi per difendere Balotelli, ma sei scemo a dire che è tra i primi 5 attaccanti del mondo, ma Radona. Mi piace avere Balotelli come la maniera di essere. A me mi ha mandato, perché giocava con l'ex di mia figlia nel City, e mi ha mandato una foto con un avano così. Mi è piaciuto perché anch'io fui un avano e mi è piaciuto. Però era la prima volta che avevo un contatto con Balotelli e mi ha fatto ridere. E ognuno gestisce la vita come la vede, come la pensa, come la sogna. E a Balotelli, lascialo tranquillo. Ha anche detto, testimone Paolo Condò, dopo Messi, Ronaldo e Neymar c'è lui. Sì. Vero? No, l'ha detto assolutamente, ti sono buon testimone. Ma quando lui dice mi ha fatto ridere, ti dice esattamente quello che noi sostenevamo prima a proposito della fruizione del grande campione sportivo. Cioè, Maradona non si chiede se le sue tane sono vere, recitate, tutto. Lui dice mi ha fatto ridere, ed è una cosa inestimabile questo, del far ridere più in senso generale, far star bene le persone, come può succedere a un campione dello sport con i suoi tifosi. Grazie Paolo. Ciao ragazzi! Ciao Paolino! No. Paolo! Mi fai Paolo alla Triestina? Paolo! Vabbè, perfetto! Ciao Carlo, ciao Pier! Ciao Paolo Condò! Allora, Pierluigi Pardo, adesso ci sono un sacco di ascoltatori in linea, eh? Certo! Vogliono tutti parlare con te! Non vedo l'ora! Superstar! Partiamo! Aspetta, partiamo! Ah, no. Partiamo con la borsa! Ah, e poi partiamo con gli ascoltatori! Allora, la borsa! Che non voglio nessuna bandiera del Milan, non voglio assolutamente una, perché quando andiamo fuori di Napoli non siamo nessuno, veramente ci mancano i rispetti tutti quanti. Tutti convocati. Che non creia, o a los que no creyeron, con perdón de las damas, que la chupen, que la sigan chupando. Sappiamo che Maradona è anche questo. E Luigi? Eccolo. C'è? Sì. Salvatore da Torino? Buongiorno, senta, io chiamo più da cittadino, un po' arrabbiato, incazzato, più che da sportivo. Io mi chiedo, ma com'è possibile dare tutta questa notorietà in questa situazione politica, sociale, economica così grave a uno che deve dare 39 milioni di euro allo Stato italiano? Ma è possibile che non c'è un giornalista, mi stupisco anche di Condò, di Minà, che non gli faccia questo tipo di domanda? Ma da quanti anziani potremmo sistemare noi? Gli ha fatta questa domanda qui invece di andare nel passato, la droga? a prescindere dalla droga uno è libero di fare ciò che vuole, drogarsi, perché secondo me quando prendeva cocaina Maradona stava bene, perché gli piaceva, poi aveva avuto i suoi sbagli, no, ma non è importante quello lì. Negli Stati Uniti ti danno 50 anni di carcere se frodi lo Stato. E qui lo accogliamo con queste musichette, i tappeti rossi. È l'unico evasore che lei conosce, vero? Non ce ne sono altri. Ma no, ma è un sistema questo qui. Il problema italiano è un sistema. Sì. Cioè, io penso che le radio, i giornalisti, gente che ha la possibilità, le persone che sbagliano e si comportano male nei confronti dello Stato italiano, non bisogna dare notorietà. Visto che la legge non riesce a dare, ma almeno tagliamo i ponti in questa maniera qui, fagli allora capire che possiamo... questi sono gli errori. Sì, questi sono gli errori, certamente, questi li paghiamo tutti certamente ci incazziamo, da lavoratori dipendenti per questa evasione fiscale pubblica. Poi abbiamo moltissime storie, ma non voglio giustificare nessuno, moltissime storie di evasione fiscale che nemmeno conosciamo e quindi alla fine tolleriamo, però questa non ci va giù, quindi... Maradona è solo un evasore. No, Maradona è un grande personaggio, è un grande personaggio che ha avuto problemi con il fisco. Poi bisogna, come spiegava prima Paolo Condò, bisogna anche andare a capire quali sono questo tipo di problemi con il fisco, ed è una questione annosa e ancora non chiara nemmeno dal punto di vista giuridico, a quanto pare. Se vogliamo dire caccia all'evasore, allora cacciamolo via Pietrate. Che cosa vuole che le risponda? Io. Pierluigi non so. No, ma il punto di vista è condivisibile, nel senso che cioè qui sono due piani diversi e tutti e due sono validi. Celebrarlo per quello che ha fatto da calciatore o per le emozioni che ci ha regalato da sportivo non significa assolverlo per il resto, però lì c'è lo Stato, cioè non so come dire, io non lavoro a Equitalia, anzi tutte le volte che mi arriva una lettera di Equitalia, come penso qualsiasi persona, ho quei 30 secondi di sudore freddo, no? Perché sappiamo che quello che può essere, quindi quello è un pezzo della realtà. Le due cose non sono in contrasto, almeno per me non sono in contrasto, sono due facce della stessa medaglia. Quello è un comportamento pubblico del quale deve rispondere. Io, se voi mi chiedete, appurate le responsabilità, se Maradona quei soldi li deve dare, io vi dico di sì. Non è che sto dicendo che debba essere considerato, che ci debba essere l'immunità per i geni, l'immunità fiscale, il condono tombale se uno è un genio del calcio. Certo. Come mi pare, qualche soldino lo debba dare anche quel bravo ragazzo di Messi, no? Ecco, è chiaro, però voglio dire, ridurre e impedire la celebrazione e impedire di accogliere con tutti i crismi la persona che rappresenta, comunque una delle due, tre persone al mondo che rappresentano il calcio nella maniera più piena, secondo me è impossibile. E comunque noi facciamo questo lavoro, abbiamo questa passione, cioè io non è che faccio la passione, non faccio il fiscalista, non so come dirti. Detto questo, l'ascoltatore ha ragione, cioè sì, poi sì. Ci debba essere uno Stato che fa pagare le tasse a tutti, quindi le fa pagare a Valentino Rossi, le fa pagare a Maradona, le fa pagare ai registi, le fa pagare agli imprenditori, ai dentisti, ai lavoratori dipendenti, questo è, per carità, siamo perfettamente d'accordo, però io non ci trovo un'opposizione in questo senso. Che dobbiamo fare? Dobbiamo far finta che Maradona non sia esistito perché c'è un debito col fisco? Non dobbiamo celebrarlo, non dobbiamo intervistarlo, non dobbiamo emozionarci perché ci ha avuto un debito col fisco. Come molti magari di quelli che chiamano hanno dei debiti col fisco, oppure li avrebbero se avessero la possibilità di contrarli. Cioè, se tu hai una che ti piace, questa qui ti emoziona, non è che non ti emoziona perché magari c'ha quattro multe non pagate, ti emoziona. Sì. Io per emozionarmi, guarda, mentre tu parli di questioni fiscali, sto guardando la gallery di Tara Paul, la fidanzata di Strutman. Mamma mia, devi stare calmo perché questo nasce con un programma serio e quindi manteniamo un livello ormonale, come si chiama, mi hai detto che cerco pure qui. Vai Tara Pols con l'H. Mi sono distratto. Gregorio Catanzaro. Sì. Programma serio, ho i miei dubbi, comunque. No, ma programma... No, ma programma serissimo, di grande serietà. Sì. E ci teniamo molto. Io vorrei parlare proprio di programma serio, perché c'è stato un giorno un ascoltatore che ha paragonato Baggio a Maradona. Io penso che quello là sia in un centro di igiene mentale, a questo con tutto rispetto per quelli che stanno in un centro di igiene mentale. Maradona è stato il massimo in tutto. Chi ama il calcio non può non amare Maradona. Il signore di prima avrà i problemi suoi, è arrabbiato con il mondo, però chi ama il calcio ama Maradona, non c'è niente di male. dove mandiamo Gregorio? Dove mandiamo Enrico Mentana che ha detto beh, lo sa ormai, no? Ronaldo più forte di Maradona. Sì, vabbè, pure sì, Mentana vabbè. Si deve fare, come dire, visitare da uno bravo, ma veramente bravo, bravo, bravo. Perché ne ha bisogno, penso. Allora, Maradona. Per il sottoscritto, visto che viene da Calanzaro, è Massimo Palanca. Certo, per il piede perché sinistro. Perché non è di Bivi? No, però scusate, posso dire una cosa su questo discorso di Mentana, che da tre giorni ha acceso le nostre linee telefoniche ancora di più, no? Ma qua è soggettivo, stiamo parlando di arte, è meglio Mozart o è meglio Beethoven? Questo è il punto del quale si discute. Poi probabilmente, in assoluto, se facciamo un sondaggio mondiale e se confrontiamo alcuni parametri, probabilmente Maradona è il più grande di tutti, per me lo è il più grande di tutti nella storia, per quella che è la mia percezione. Però insomma, se Mentana si è emozionato con Ronaldo, e Ronaldo nei primi 2-3 anni era un giocatore pazzesco, è il solito discorso, no? Cioè, è giusto così. Non esiste l'oggettività, non c'è scienza più inesatta nel calcio. Non deve esistere ed è per appunto, questo che io appunto. Dico la certezza del diritto non la voglio nel calcio, non voglio la certezza del diritto e voglio la libertà di opinione, deve essere un mondo libero. Ha visto mai. Giovanni Milano, buongiorno. Ciao, tutto bene? Benissimo. Sì, sì. No, volevo dire che da Juventino, il giocatore che mi ha emozionato di più ovviamente è Zidane. Però, Maradona era soprattutto. E poi basta questa storia, chi è più forte, Maradona e Messi. Cioè. Maradona? Sì. O Messi. No, è una storia che non esiste, Giovanni. Infatti, cioè, ringraziamo il signore. Non si pone il confronto, più che altro non si pone il confronto. No, invece il confronto, se sei laico devi porlo, perché c'è pure chi dice che è più forte Messi e i numeri di Messi sono numeri impressionanti. È chiaro che gli manca una consacrazione a livello di che Coppa è quella del mondo. Che fa tutta la differenza del mondo. Tu ti ricordi con che squadra vinse? Vince il mondiale. Bene, a quel punto poniamo il confronto. Io adesso non lo pongo. Posso dire una cosa? Se no diventa come il pallone d'oro vecchia scuola, no? Allora, io preferisco Maradona a Messi, ma io preferisco Maradona a Messi per quello che dicevo prima. Però pallone d'oro è premio individuale, che nel calcio non c'entra niente. Ho capito, però se noi adesso stiamo decidendo chi è il più forte di tutti e stiamo dando una sorta di astratto premio individuale, no? Stiamo decidendo chi è il migliore. E io non sono completamente d'accordo nell'assegnarlo per quantità di trofei, perché altrimenti chi ha giocato in una squadra più forte vince sempre. Ora, la grande forza di Maradona sarà quella di aver vinto un mondiale e di aver sfiorato di vincerne un altro con una squadra che era forte, sì, ma non così grande. E di aver vinto, in realtà, la vita di Maradona è stata una vita all'opposizione. Anche questo, secondo me, lo rende particolarmente letterario. Perché Maradona non ha giocato, con tutto rispetto, nel Real Madrid, nel Manchester United o nel Bayern di oggi. Maradona ha scelto Napoli. Napoli in quegli anni lì, grazie a lui, è diventata una grande realtà, ma era una scelta di opposizione, era una scelta comunque alternativa rispetto a quelle che erano le superpotenze del calcio internazionale. Quindi questo, secondo me, è un'ulteriore medaglia che Maradona si può mettere sul petto. Il fatto di essere riuscito a vincere tanto, comunque, ha segnato più Cavani di Maradona col Napoli in Europa, perché ha giocato di più, essenzialmente. Ha giocato di più in un'altra epoca, più partite, eccetera eccetera, però il distinguo che si fa tra Messi e Maradona è un distinguo importante. Sai benissimo con quale squadra Diego Maradona nell'86 vinse da solo un mondiale, una squadra che valeva il Lecce, con tutto il rispetto per il Lecce. Ci fermiamo per il traffico, poi di nuovo insieme. Con me ha fatto un mondiale straordinario e quando siamo rimasti fuori io ho sentito piangere lui come non ho sentito nessun altro, così che a me mi rimane il miglior ricordo di Lionel Messi. Tutti convocati. Una signora squadra, l'Argentina dell'86, come scrive Gianluca, era una signora squadra, ma me li ricordo, l'Artico Ecea, Cucci. Sì, posso dire però che non era il Lecce, con tutto rispetto per il Lecce. Era una buona squadra, dai. Aveva un grande giocatore che era Valdano, un ottimo giocatore che era Burruciaga, e gli altri erano dei falegnami, abbi pazienza. era dei falegnami, non era una squadra però, da mondiale. Resi grandi dal più grande, dai. Luca da Bari. Pronto? Pronto? Buonasera. Dica. Volevo entrare in quel piccolo partito che avete appena fondato. Per quanto riguarda il calcio, amante del calcio, Maradona è il numero uno, non ce n'è per nessuno. Ad averci altri Maradona. Ah, sicuro? Che dessero calcio al calcio. Questo è quello che mi sento di dire. Grazie e buonasera. Lo fa lei il segretario? Magari. Magari. Per la sintesi si è conquistato il ruolo di portavoce. Bravo. Tranquillamente, sì. Ascolta, vorrei cambiare un attimo argomento perché voglio farti sentire una cosa meravigliosa. Cioè, meravigliosa. Una cosa estremamente divertente. Allora, Lotito, Lira TV a Salerno. Allaccia la cintura Pierluigi Parri. Sì, sì. Eccolo qua. I remember when I lost my mind. There was something so pleasant about that place. Even your emotions have an echo in so much space. Cara vita con la stampa che crea problemi, con Marianza che crea problemi, con i giocatori che si specchiano, se si sentono belli, bravi, buoni. E andiamo sul campo, andiamo a giocare. I mezzi di comunicazione la finiscono di creare problemi all'interno dello spogliatoio, facendo la cassa di risonanza di problemi di carattere personale. A cacciare a zero la squadra, li caccio via, tutti quanti. E lo faccio 24 ore, eh? E non significa che c'è Marco Suma da parte dei diretti interessati di chi riferisce, e se lo prendo gli stacco la testa io. Vi faccio smettere di giocare a pallone. La gente non aspetta, rompi i coglioni, questo è il problema, ha capito? Da ogni volta c'era una, e c'è stata contro l'allenatore, contro quello, contro quell'altro, lei che abbassa così giochi. La squadra non gioca per l'allenatore? No, ma non ha capito niente, vedi come al solito, capisci se capisci per fianchi. Va bene, presidente, mi scusi, io non sono a livello forse di capire le sue parole. Che parli così, che accetta l'allenatore? Luigi, qualche problemino a Salerno e alla Salernitana. Sì. Houston abbiamo un problema. Esatto. Abbiamo un problema. Beh, divertente, Lotito è sempre. Bah, te cosa dici? Lotito. Ma io grande. No, fuori dallo scherzo, io ho grande rispetto per Lotito. Ho grande rispetto perché, ma lo sai, è uno dei pochi che ha il coraggio di parlare, magari non quando parla così. L'altro giorno alla nostra radio è stato uno dei pochi ad avere il coraggio di dire certe cose, ed è uno che ha il coraggio anche dei fatti. Perché combatte sul serio certe distorsioni e rapporti tra club e ultra. Vabbè, Raffaele, provincia di Napoli. Pronto, buongiorno, ringrazio di essere stato convocato. Io consiglierei a Lotito un po' di camomilla, vabbè, lascio fare. Vabbè. Senta, sono un tifoso, complimenti per la decisione e soprattutto al simpaticissimo Tardo. Senta, volevo chiedere una cosa, per la partita di stasera, secondo lei, a parte che penso che non sia decisiva, quale può essere, diciamo, la svolta al centrocampo, probabilmente come al solito, chi può essere il giocatore decisivo e se ci può essere una vittoria così, oppure che finisca in un pareggio molto tattico. E poi volevo sapere sulla basket, la squadra di Roma quest'anno che può ripetere la bella stagione dell'anno scorso. Allora Pardo, vai con l'ombra del partito. No, io penso che il centrocampo della Roma debba fare un grande lavoro stasera. Per me il Napoli ha qualcosa in più in termini di individualità, la Roma ha qualcosa in più in termini di squadra e di collettivo, per quello che si è visto nelle prime sette giornate. Poi c'è la sosta spesso spariglia, no? Cambia gli equilibri. Però io penso che il Napoli abbia qualcosa di in più davanti e qualcosa di meno in difesa. Per cui se la Roma riesce a stare bella compatta e a ripartire, secondo me può avere un vantaggio, però insomma c'è anche da dire che la Roma, a parte Parma, è sempre andata in vantaggio, e questa cosa, che chiaramente è un merito che si è costruita, però è interessante, no? Perché ha sempre potuto fare poi una partita di non dico di rimessa, ma insomma ha potuto sempre sfruttare quella che è la sua qualità migliore, che sono le ripartenze. Quindi bisognerà capire se anche stasera avverrà una situazione di questo tipo oppure no. Quanto potrebbe sentire la pressione la Roma alla prima grande partita in questa condizione da capolista a punteggio pieno, eccetera. Ma è la seconda grande partita, perché Inter-Roma non è che fosse, sì certo Roma-Napoli è uno scontro diretto, ma Inter-Roma prima di Inter-Roma era uno scontro diretto, certo. Poi la Roma l'ha vinto, adesso l'Inter è un po' staccata, quindi se dobbiamo giudicare da quella partita lì, la pressione l'ha retta benissimo. Non lo so, è molto presto, diceva giustamente l'ascoltatore, è molto presto, non è una partita decisiva, non... e questa è una maratona, siamo al primo chilometro o al secondo chilometro della maratona, quindi sicuro. Per ora insomma i segnali sono che la Roma questa pressione riesce a gestirla con grande tranquillità, ma stasera chiaramente è una partita che poi fa giurisprudenza, no? Senso, sicuro. Poi comunque andrà a finire, cambierà la percezione che avremo. Allora, quanto invece alla Roma del basket, una parola molto difficile che possa ripetere la stagione dell'anno scorso con un dato a me in meno. Ruben, provincia di Cuneo. Ciao Carlo. Ciao. Grazie della convocazione. Grazie per aver risposto. Prima mi sono sentito chiamato in causa, te la posso dire io la squadra. Pumpido, l'Artico C, Abrau, Ruggeri, Cucciufo, poi giocava Giunti, sì. Enrique Batista, Enrique Batista, Urruciaga, Valdano e Maradona, por supuesto, sì. Che fu il che mi hizo ganare. Non è male, però, no? No, non era male, però non sono tutti in macellaio, però a centrocampo non passava nessuno. No, non passava nessuno perché li stiravano. Io ti posso rispondere, Figliolo, Ghin, Tarantini, Gagego, Galvan, Passarella. Osman, Ardiles, Bertoni, Kempes, Luque, va bene? Avevo 2 anni lì. E io qualcuno in più. No, però la differenza tra Messi e Maradona l'ha fatta che nell'86 c'era Bilardo in panchina e non prendevamo gol quasi. Sì. Sì, invece, è vero, invece, verissimo. Questo è nel 2010 avevamo Maradona e lui voleva solo fare gol. Basta. Verissimo. Incredibile. Sì, poi ero a Cape Town per Germania-Argentina, una delle più grandi umiliazioni della storia dal punto di vista tattico. Ma insomma, lì probabilmente un grande giocatore non è automaticamente un grande allenatore. Le scelte di Maradona nel 2010 in Sudafrica furono ampiamente folli. Contestabili. Pierre, grazie. Grazie a te. Buon weekend, noi ci vediamo domenica sera, Ci vediamo domenica sera, sì. Sapremo già quasi tutto, avremo fatto, ci saranno state almeno 3 partite clamorose quando ci sentiremo nell'edizione domenicale. E poi di nuovo lunedì, grazie quando per Luigi Parla. Qua siamo. Ciao. Noi invece ci risentiamo dopo il GR. Senti Diego, una domanda a Rummenigge, se l'avessi incontrato fuori dallo stadio, cosa gli avresti chiesto? Che non giochi. Vabbè, auguri. Tutti convocati. Convocatissimi Francesco da Catanzaro e Luca da Firenze. Buongiorno. Salve. Ciao Francesco. Buonasera. Ciao Luca. Dimmi Francesco. Volevo intervenire sul discorso di Maradona. Volevo un po' dissociarmi sull'unanimità dei giudizi. Maradona è stato un campione, ma un campione a metà. Non dobbiamo dimenticare i suoi problemi, che non sono quelli attuali dell'ETR, ma con la droga che ha avuto. Maradona non si allenava eppure era sempre in forma, e poi se dopo qualche tempo si è scoperto il perché. No, non è così. Io dissento da questo, nel senso che immaginiamo cosa sarebbe potuto essere Diego Maradona se non avesse avuto problemi di droga, perché non raccontiamoci stupidaggini, è deleterio per un calciatore l'uso di stupefacenti come la cocaina. Non giocava bene perché si faceva, anzi debilitava il suo fisico, sottoponeva il suo fisico a una tortura, inquinava il suo fisico, quindi non diciamo che giocava bene perché si faceva di cocaina. Ho detto che Maradona era un campione, però dico che un campione è pienamente campione quando anche è di esempio ai giovani. Tante volte adesso diciamo che i campioni fuori classe devono essere ad esempio ai giovani. Campioni si è in campo, ma si è anche fuori. E allora io capisco le persone che lo paragonano a Baggio, che lo paragonano a Platini, che lo paragonano Del Piero, Totti, per dire gli ultimi, quelli che stanno ancora giocando, con la differenza che quelli sono effettivamente, possono essere di esempio per i nostri giovani. Io non credo, Francesco, questo è un altro discorso che io non condivido, cioè i giocatori devono essere per me valutati e devono essere di esempio per quanto fanno in campo, devono essere un esempio come sportivi sul campo per quello che, per le emozioni che riescono a dare, non devono e non possono essere un esempio per i giovani fuori dal campo, perché per quello deve esserci la famiglia, devono esserci esempi diversi, e siamo noi a dover dire loro bravissimo quello a giocare, ma fuori un po' meno. Quindi io non credo che ognuno deve fare il suo mestiere, il mestiere degli sportivi è quello di fare gli sportivi al massimo livello possibile. Se si comportano bene, meglio, se hanno un'immagine pubblica pulita, meglio, però io contesto questo assioma, perché allora cosa diciamo? Che Mick Jagger, che ne ha fatte più di Carlo in Francia, deve essere un esempio per tutti i giovani che vogliono fare i musicisti? Insomma, potrei andare avanti a fare esempi di questo tipo, Andy Warhol o Picasso o che ne so, John Belushi, Joe DiMaggio, James Dean, che ne so, sono tanti gli artisti che hanno avuto una vita più o meno maledetta, non devono essere di esempio a nessuno. Luca, Firenze, buongiorno. Mi ha levato le parole di bocca, volevo dire esattamente questo. Per me, ho chiamato anche io per Maradona, io sono di Firenze. L'ho visto giocare 5 o 6 volte, per me non è paragonabile con nessuno, con niente. Noi andavamo mezz'ora prima solo per vedere palleggi che faceva, era una cosa spettacolosa. Io sono di Firenze, non ho mai invidiato niente a nessuno, sto nella città più bella del mondo, Maradona napoletano l'ho sempre invidiato. Grande Luca. Quella è una cosa che veramente l'hanno avuto solo loro. Io sono venuto a Firenze a vedere Maradona anni e anni fa, perché avevo questo difetto, dove giocava io andavo a vederlo, ma non perché fossi tifoso del Napoli, perché volevo vedere Maradona. Noi ci siamo anche spellati le mani, perché Firenze... Che ne diano una piazza competente calcisticamente, cioè indipendentemente da tutto. Io mi ricordo che spesso Maradona usciva fra gli applausi. Sì, sì. Cioè, sì, una cosa rarissima a Firenze. Sì. Rarissima. No, perché... ma poi come si va a vedere i concerti delle rockstar maledette che si bucano dalla mattina alla sera, però infatti, allora quelli allora non sono di esempio ai bambini. No, non lo sono, ma andiamo a sentirli cantare. Non è che. Ma anch'io volevo dire facciamo... esattamente quello. Oh, no. Ma chi se ne frega di chi ha fatto fuori? Ma basta con queste storie. Cioè, ma chi se ne frega? Ma io pago il biglietto per andare a vedere giocare a calcio. Cioè, esatto. Ma il resto sono tutte bischerate. Come si bischerate, dice? Bischerate, cioè, ci sta. Grazie, Luca. Grazie a voi, grandi. Facciamo un volo lunghissimo, finalmente, negli Stati Uniti. Simone Sandri. Buongiorno, Carlo. Come stai? Molto bene, grazie, tu. Benissimo, stiamo parlando di icone, di... Ho sentito e sono d'accordo al 200% con te. Ma poi non è che, scusa Simone, non è che anche dalle tue parti Michael Jordan abbia avuto completamente una vita specchiata, ha avuto problemi di gioco, un omicidio misterioso del padre, eccetera, eccetera. Kobe Bryant, processo per stupro, lasciamo stare Tyson, eppure sono icone dello sport. Sì, no, è vero, hanno preso, se vogliamo, si dice qui da queste parti, dei 2K hit, cioè hanno preso... da un punto di vista magari del marketing si sono abbassate magari la percentuale, dico anche Tiger Woods è l'esempio più classico. Tiger Woods, bravissimo. Negli ultimi si sono abbassate un po' il gradimento dal punto di vista del marketing, le aziende hanno lasciato questi grandi campioni, peraltro non dimentichiamoci, li hanno lasciati per un certo periodo, quando hanno capito che le acque si erano calmate, tutte le grandi aziende sono ritornate al capezzale di Michael Jordan, di Kobe Bryant e soprattutto di Tiger Woods, per cui la verità di fondo è sicuramente questa, quegli atleti vengono giudicati per quello che fanno in campo o sul parquet, e questa è comunque una verità di fondo. Simone, siamo con la stagione alle porte, almeno quella dell'NBA, e siamo abbastanza carichi perché i nostri mi sembra che abbiano trovato la collocazione ideale, almeno a sentire le parole. Sì, sono d'accordo, soprattutto direi soprattutto per quanto riguarda Marco Bellinelli. Io sono stato per 4-5 giorni a San Antonio la settimana scorsa e devo dire che ho visto Marco Bellinelli veramente entusiasta di quello che ha visto, di come è stato accolto dai compagni, e soprattutto entusiasta di Greg Popovich, che è un allenatore molto particolare, che può sembrare un burbero da fuori, ma che è una persona veramente straordinaria, che riesce ad avere un rapporto speciale con i giocatori che va al di là del basket, e ha subito avuto un ottimo feeling con Popovich. Tecnicamente penso che sia la soluzione migliore, lo dicono un po' tutti, che penso che sia la soluzione veramente migliore per Bellinelli, perché avrà in teoria un discreto minutaggio, sempre che se lo meriterà naturalmente, in una squadra che gioca un basket che si addice alle caratteristiche di Bellinelli, ma soprattutto una squadra che sa, che conosce bene le potenzialità di Marco e che credo che li saprà sfruttare al meglio. E secondo me per Bargnani c'è qualche punto interrogativo di più perché a New York c'è una situazione un po' particolare e soprattutto per quanto riguarda la posizione di Stoudemire, che per adesso non è ancora rientrato, sì. È ancora infortunato. Quando rientrerà Stoudemire probabilmente ci sarà qualche punto interrogativo in più, perché bisognerà capire i minuti che se li prenderà, dove li prenderà Stoudemire, se li toglierà al Mago, se li toglierà a Meta World Peace, cosa succederà, perché è da più di un anno che si parla di questa convivenza forzata tra Stoudemire e Carmelo Anthony. Bargnani entra in questo spogliatoio che non è il più facile dell'NBA, perché in questo momento ha fatto tutto bene, ha detto le cose giuste, sta giocando in pre-season, sta giocando bene, sta facendo le cose che Hudson gli sta chiedendo, per cui per adesso sicuramente le cose stanno andando bene. L'unico mio dubbio è quando rientra Stoudemire, cosa succederà. Un'ultima cosa, Simone, approfitto della tua finestra sugli Stati Uniti, come hai percepito lì Balotelli? Questa è un'ottima domanda. Balotelli è percepito come, per fare un paragone, come tu parlavi degli atleti maledetti, probabilmente è il calciatore maledetto Balotelli, perché questa contraddizione che a un certo punto di vista affascina gli americani talmente tanto che è finito sulla copertina di Sports Illustrated, e per un calciatore, diciamo, del suo, se vogliamo, del suo status è abbastanza particolare, perché ricordiamoci, Balotelli comunque nell'immaginativo popolare di un popolo che non ha che sul calcio non ha una storia e non ha soprattutto una conoscenza così dettagliata, su Sport Illustrated invece dove finì Messi o Cristiano Ronaldo. Il fatto che ci sia finito in copertina Balotelli la dice lunga su che tipo di personaggio sia e quanto paradossalmente piace anche agli americani per questa stessa contraddizione. Per cui sicuramente è un personaggio che avrebbe un grandissimo successo anche qua negli Stati Uniti, se un giorno dovesse decidere di venire da queste parti. Grazie Simone, ci sentiamo presto. Grazie Carlo, ciao. Grazie Simone Sandri per questo primo abboccamento con lui e con lo sport americano. Siamo non proprio in chiusura, state con noi perché adesso, grazie a Roberto Scaltritti, abbiamo il mix del venerdì su tutto il meglio della settimana di Tutti i Convocati. Ringrazio anche Giorgio Luca, autore di questo programma. Domenica c'è Giovanni Capuano dalle 17 alle 19. Noi ci risentiamo lunedì alle 2. Ciro Ferrara, ciao, grazie. Vogliamo parlare di Pirlo, che secondo me è uno dei centrocampisti più forti al mondo, uno che avrebbe meritato il pallone d'oro, ma è uno che sta sempre in silenzio, fa poche interviste, non lo vediamo mai sui giornali, non ha la cresta. Enrico Mentana, buongiorno. Buongiorno, grazie. Allora, cioè, non si può non pensare da interista, ma non solo da interista, che Ronaldo sia stato il più grande fenomeno che sia apparso su un campo di calcio. Più di Maradona. Ma più le cose che ho visto fare a Ronaldo non le ho visto fare a nessun altro giocatore. Todos los convocados, y ahora vamos en directo en vivo con Madrid con Filippo Maria Rissi. La Juventus per me ha delle chance qui al Bernabeu. Questa è una settimana chiave per Ancelotti, è già stato fischiato a pochi mesi dal suo arrivo, quindi c'è un'aria strana e c'ha mercoledì la Juve e sabato il classico al Camp Nou. Giampiero Ventura, come va? Tutto bene? Cioè, tutte le mattine un po' di bagna cauda, pasto frugale a l'una e mezza, pane salame col plin, no? È un classico al pomeriggio, all'ora di pranzo sempre il primo, e un po' di vitello tonnato per stare leggero, e poi l'aperitivo, poi una sprizza buona, profusione, che, praticamente fra un mese sono dentro un ricovero. Cioè, che devo fare una scelta ben precisa: o bagna cauda per portare a casa i tre punti o se no mantenere il fisico, quindi adesso vedrò di fare il mio meglio. Facciamo una dieta equilibrata e poi andiamo a vincere. Concludo ricordandovi che la nostra trasmissione va in onda alla stessa ora ogni settimana, lo stesso giorno, la stessa ora, la stessa rete, bello, eh?